Dialog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Centro di revisione è stato trovato un software hackerato che consentiva fittiziamente di sottoporre a revisione delle autovetture che materialmente non erano presenti nel centro stesso. In un altro caso abbiamo trovato delle attestazioni firmate dal responsabile tecnico di un centro che era invece deceduto da circa 9 mesi, per cui 1600 circa autovetture con queste attestazioni, ovviamente non regolari, saranno richiamate a revisione. 1600 revisioni di automobili certificate da un morto e 3 officine autorizzate dalla motorizzazione civile che lavoravano con un software craccato. Sono i numeri sconcertanti della truffa scoperta a Napoli dai carabinieri in un mese di controlli sulle auto. Ecco, questo tanto per ricordarcelo, perché oggi sono tutti bravi a dire: hai visto i tedeschi? Tutti diciamo che le macchine tedesche erano perfette. Oggi c'è la vignetta di Varro che fa ridere, c'è la Merkel che canta "tu chiamale se vuoi missioni", intanto fa una puzzetta dal sedere in faccia a uno che si tura il naso. Quindi è bellissimo, lo so, è la soddisfazione di tutti noi che ci siamo sentiti fare una testa così su quanto erano bravi i tedeschi a fare le macchine. Io mi sono comperato come prima automobile un Maggiolino usato, perché mio padre dice: soltanto le macchine Volkswagen sono le uniche che funzionano, che vanno. Da anni ha sempre usato Volkswagen. Oggi abbiamo visto che anche quelli della Volkswagen, in questa immensa e miliardaria truffa, facevano i furbetti, avevano un software che illudeva i controlli antiparticolato, che tutto andasse bene, poi in realtà riaprivano come la puzzetta della Merkel al massimo e ci avvelenavano tutti. Ma non voglio entrare in questo tipo di polemica, oggi ho bisogno viscerale del contributo del pubblico, voglio sapere: quante volte vi è stato proposto da un meccanico, da un'officina, da un amico degli amici, dalla persona informata, dal collega d'ufficio, che è possibile passare comunque attraverso le maglie strette di una revisione, di un controllo, di qualcosa riguarda la vostra autovettura? E quante volte nell'acquistare o nel vendere una macchina usata siete venuti a conoscenza, o passivamente o in maniera del tutto truffaldina, perché qualcuno ve l'ha consigliato, di stratagemmi per far tornare efficiente un'automobile che in realtà è più vicina alla categoria dei 14. 800 24 0024. Cosa sappiamo noi rispetto alle truffe che si fanno sulle automobili? Fingevano di fare i controlli necessari per la revisione delle auto e poi rilasciavano un attestato falso a veicoli in pessime condizioni. 8 mesi di indagini della Polizia Stradale di Cosenza hanno permesso di scoprire le irregolarità di 7 tra i centri più importanti per le revisioni degli autoveicoli nella provincia. In alcuni casi, per ingannare il sistema informatico automatizzato, arrivavano ad usare veicoli diversi da quelli da revisionare. Abbiamo sempre riscontrato che alcuni veicoli inefficienti, un documento, diciamo la carta di circolazione, riportava il timbro revisione regolare. Quindi era veramente assurdo che un veicolo palesemente inefficiente potesse circolare revisionato in tutte le articolazioni. Poiché il fenomeno è stato sempre in continua crescita, il sostituto tridico ci ha tenuto notevolmente affinché questo fenomeno fosse veramente messo al bando. Per 800 24 0024, li conoscete i furbetti dell'officinetta, il meccanicuccio che tutti conoscono, che è tanto bravo, che vi manovra qualcosa in cui per cui la macchina torna come nuova, oppure passa per quel problemino che in realtà la renderebbe inefficiente, o che è bravo magari a ritoccarvi la targa quando dovreste cambiarla se non è più leggera. C'ha la vernicetta speciale, quella fosforescente, c'ha il software speciale, insomma da lui tutto passa quello che non dovrebbe passare. Questa è la domanda che faccio oggi agli italiani, perché non si sentano assolti dal fatto che anche gli immarcescibili tedeschi hanno fatto i furbi dal punto di vista della revisione delle automobili. Abbiamo un ospite di cui stiamo usufruendo in maniera impropria, perché è all'estero e quindi sta chiamandoci col suo telefonino, ma velocemente cercheremo di avere da lui le indicazioni rispetto a quello che sta accadendo, è sempre accaduto in Italia. Claudio Cangialosi, direttore fondatore di sicurauto.it, che è il portale dedicato alla sicurezza dell'auto, quindi è la persona più informata rispetto a questo problema. Claudio Cangialosi, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, in Italia cosa accade in realtà? Perché sembra che siamo tutti tornati vergini improvvisamente. Quali sono i due settori principali, cioè quello delle revisioni e quello dell'auto usata, in cui i furbetti del motorino riescono a mettere le mani? un po' come avete detto voi, ho sentito un po' le notizie. Il vero problema è che poi tutto quello che accade nelle revisioni e anche poi nelle auto usate è un po' figlio anche della nostra cultura, quello del cercare di arrangiarsi, quello di voler cercare di eludere la legge. Sembrerebbe che con un nuovo sistema che arriverà alla fine di quest'anno, il sistema MCT NES 2, che permetterà ai centri di revisione di avere più controlli, non più software craccati, e quindi anche una telecamera che controlla la vettura, quindi nel momento in cui ci sarà la revisione non potrà più il meccanico prendere una vettura che è buona e spacciarla per quella che invece... Ecco, ma come funziona il software craccato? Il mercato come si svolge? Se lo passano di officina in officina? Allora, in realtà è proprio questo il problema. Molti di questi software, che poi sono quelli in teoria certificati dal Ministero, ma che poi hanno la possibilità di essere appunto craccati. Come avviene un po' il crack? Io ho visto farlo una volta e quindi ho imparato un po' come diciamo, queste persone agiscono. Il software, nel momento in cui fa il check di tutta la vettura passa in teoria i vari passaggi, però magari c'è qualcosa che non va, esiste un log. Questo log viene manualmente manomesso dall'operatore. Ci riscrivono sopra, sulla memoria delle operazioni fatte, ci riscrivono sopra. Esatto, lo spacciano, poi mettono i valori, quelli corretti, i parametri di legge, e dopodiché lo salvano e fanno stampare la classica stampata in cui poi si dice che la vettura ovviamente ha passato regolarmente la allora, fermo solo un secondo, solo un secondo, arrivano le prime segnalazioni, me le immaginavo, 800240024, Paola, buongiorno. Buongiorno. Conosce uno specialista lei? Sì, io c'è cioè il marito di una mia carissima amica qui a Milano che di mestiere fa il, non lo so, il taroccatore. L'azzeratore di contachilometri. Sì, e lavora per le maggiori concessionarie di auto, moto. Lui va e gli dicono: questa macchina mi metti 10.000 chilometri, questa 15.000. E lui fa questo. Ma cosa c'ha? Che attrezzatura usa? Lei lo sa, l'amica di computer, cose di computer, cioè hanno dei software, vanno con dei computer, dei software. La sua amica, quando qualcuno le domanda che mestiere fa tuo marito, si dice l'azzeratore di contachilometri. Dice lavora nel mondo dei computer, con sì, nella parte elettronica delle automobili. E diciamo lo pagano al nero naturalmente, che non può essere pagata questa operazione. No, perché risulta come assistenza, magari dicono che è rotto come assistenza. No, tutto fatturato. E con questo guadagna bene lui? Ci campa una famiglia, sì. Ci campa una famiglia. Allora, con l'azzeramento del contachilometro abbiamo scoperto una nuova professione. Si gira e si abbassano i chilometri percorsi in automobile. Claudio Cangialosi, conosce questo tipo di attività, l'azzeratore? Assolutamente sì, ed è un problema diffusissimo sul mercato. Ed ecco perché poi alla fine l'acquisto di un'auto usata oggi avviene paradossalmente più tra privati che non tra professionisti verso appunto i privati. Questo perché? Perché paradossalmente si ha più fiducia della persona per strada, che sembrerebbe magari non avere anche le attrezzature, l'accesso a operazioni del genere, e quindi poi si fida magari di più questa persona rispetto a un professionista. Io dico per esperienza, non cito la marca, ma una marca d'auto a cui mi servivo da anni e pensavo di avere fiducia cieca, mi ha dato una macchina usata in cui era stato millantato e aver fatto il tagliando, c'era la morchia, non avevano cambiato l'olio da quando aveva acquistato il proprietario, e soprattutto io stupido non avevo guardato, avevo quattro gomme tutte e quattro diverse, ognuna diversa dall'altra, e evidentemente ci hanno provato. Un'altra cosa è molto importante dire ai consumatori, che prima di tutto sia nei confronti ovviamente di un eventuale concessionario o rivenditore di auto, il diritto di avere un anno di garanzia per legge sulla vettura usata, e ricordiamoci che il nostro antitrust può sanzionare anche il singolo concessionario nel caso in cui vada oltre, cioè vada contro il codice del consumo. Quindi non fermiamoci al dire vabbè, questa volta mi è andata male, la prossima volta starò più attento. No, denunciamo, abbiamo gli strumenti. Cioè. Noi abbiamo creato una guida su sicurauto.it che la gente può scaricare con tutte le informazioni utili per i consumatori, per dove devono stare attenti, cosa guardare, quali sono i loro diritti. Hanno pure una checklist da stampare per poter controllare tutte le parti della vettura, perché l'acquisto dell'auto usata, che sicuramente non è da scoraggiare, va fatto con molta attenzione. Siccome il problema dei contachilometri è un problema diffusissimo, io ho parlato con diciamo, ovviamente fonti anonime, ma che comunque stanno nel settore, che dicono se non facciamo così siamo fuori dal mercato, perché se noi facciamo usciamo fuori con una vettura con 130.000 km, non la compra nessuno, perché poi va dal concessionario accanto e la trova a 70, senza capire che quella di 70 in realtà ne ha 130. Solo siccome l'italiano vuole, a volte è preso un po' in giro, allora ecco perché il mercato è drogato ed ecco perché è inquinato anche da queste. Quindi è come la tinta per i capelli, tu, se li tingono tutti, chi non si li tinge sembra più vecchio, deve tingerseli, ecco così. Bravissimo, è esattamente questo il problema poi diciamo di fatto nel mercato oggi, ecco perché bisogna stare più attenti. Ecco, io chiedo agli ascoltatori, quali sono allora le volte vi siete accorti che vanno fregato in qualcosa del genere? Perché le automobili, quelle nuove, quelle di ultima generazione, sembrano inattaccabili, sono tutte elettroniche, sono dei veri computer, ma proprio per questo, come avete capito, è ancora più facile metterci le mani, se no non sarebbe accaduto il caso Volkswagen. Se ci fosse stato un tappo come quelli della macchina di Pippo e Topolino attaccato alla marmitta della macchina, era più difficile probabilmente toglierlo per eludere il controllo, ma con un software si può fare di tutto. Luca, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Cosa le è accaduto? Una cosa tra il paradossale e il comico. Sono stato fermato per un normale controllo da una pattuglia della polizia stradale un paio d'anni fa. Normale controllo, hanno visto che avevo fatto l'esame per gli scarichi, il bollino per le emissioni, sì. Esatto, quindi compariva il mio bel bollino aggiornato, però la macchina doveva essere revisionata, io naturalmente non ricordavo la scadenza della revisione, quindi si sono chiesti com'era possibile che chi avesse fatto il controllo delle emissioni non avesse anche fatto la revisione, e alla fine abbiamo scoperto che in realtà le emissioni erano completamente inventate, per cui mi hanno ritirato il libretto e quando mi sono presentato dal meccanico, chiamiamolo così, che avrebbe dovuto fare tutte queste cose, si è spaventato a morte e mi ha detto: fermi tutti, faccio io a mie spese. Cioè fanno prima a dare il bollino senza fare i controlli, si risparmia tempo e soldi. Sì, esatto. Poi la cosa era comica perché addirittura poi la polizia stradale, durante un normale pattugliamento, ha perso anche il mio libretto, quindi hanno dovuto loro fare. Vabbè, questo è un aggravante. Può accadere, Claudio Cangialoso, ricordo direttore di sicurauto.it, che è il sito, come ha già detto, da cui potete scaricare un modulo in cui ci c'è tutto l'elenco delle possibili truffe sui taroccamenti delle automobili. Ecco, è possibile che facciano una revisione, diano il bollino senza poi in realtà fare l'operazione? Allora sì, c'è da dire anche che in passato i gas di scarico venivano controllati annualmente in alcuni comuni e quindi non camminava questo tipo di controllo insieme alla revisione. Adesso diciamo che è tutto unificato ogni 2, ogni 4 secondi dell'età della vettura. Può succedere che però magari in quell'occasione c'era il controllo del gas di scarico che serviva per il singolo comune, magari il meccanico non si è accorto che andava fatta anche la revisione, ma torniamo sempre lì, magari questo è lo stesso meccanico che anche se avesse dovuto fare la revisione avrebbe utilizzato diciamo poi alla fine il software pirata, il software craccato. Addirittura ci sono stati casi in passato dove alcuni centri facevano le revisioni, stampavano il bollino da mettere sul proprio libretto di circolazione e poi non trasmettevano i dati al ministero e quindi addirittura la vettura non risultava in realtà mai essere stata diciamo revisionata, quindi addirittura una cosa peggiore perché la gente pagava e poi si ritrovava la multa perché non risultava che ecco, ma tutto questo stata... mi scusi Cangialosi, la gente perché lo fa? Perché pensa che tanto comunque l'apparato burocratico è talmente slabbrato che nessuno se ne accorga? Non sanno che alla fine poi alla fine su cose così pratiche il colpevole viene sempre fuori, viene a galla se qualcuno ci mette le mani. È venuto a galla per la Volkswagen, figuriamoci per il meccanicuccio di quartierino. Ma non ci dimentichiamo che la Volkswagen dal 2009 faceva un'operazione del genere e tra altre cose nell'ambiente diciamo circola molta voce che non sarà neanche l'unica che fa un'operazione del genere. E cosa succederà di qua in avanti? Ah, questa ci dia questa anticipazione, gira voce nei vostri ambienti informatiche, presto altri marchi seguiranno la stessa, perché mi sembra strano soltanto loro, e gli altri cosa facevano? Non è solo loro, è ovvio che le indagini andranno avanti, poi si scoprirà probabilmente più avanti cosa diciamo per quanto riguarda gli altri brand. La verità è che come sempre dobbiamo imparare dagli americani, perché questa è una vera lezione per l'Europa, dove i diritti dei consumatori lì sono veramente garantiti, anche se poi magari ci sono voluti degli anni, l'NHTSA che è l'ente che anche ha multato FCA come tanti grandi gruppi per gli airbag o per i richiami non fatti. Ecco, questa è una lezione che dall'America dobbiamo veramente imparare, perché i diritti dei consumatori lì hanno una vera forza. In Europa e a maggior ragione in Italia sono spesso dimenticati. Ecco perché poi si arriva a questa cultura del cercare di fregare il più possibile, perché si sa che tanto il sistema è un colabrodo. I centri di revisione sono, non ricordo i numeri, ma credo che siamo all'ordine di 100.000 in Italia. Si figuri se riescono a fare i controlli su tutti. Se noi abbiamo l'idea che tanto inquinando non si pensa, anche i miei figli si avvelenano, mia moglie, i miei amici, le mie amiche, io stesso, c'è tanto un problema degli altri. Oppure c'è l'idea che le leggi siano fatte in maniera esagerata da persone malate, maniache, quindi alla fine ma chi se ne importa? Questa è l'idea che circola, se no uno non farebbe male a se stesso, penso. Assolutamente sì, è un po' la figlia della nostra cultura, come dicevo all'inizio, è inutile che ci prendiamo in giro, siamo sempre quelli che siamo abituati a cercare di trovare l'escamotage, che può essere la singola stupidaggine di andare alle poste, se c'è l'amico si salta la fila, si arriva fino a poi alla cultura sbagliata del inquino, non mi interessa perché tanto del bene comune non mi importa, quello che conta è che io ho 150 euro per cambiare il terminale di scarico della vettura, non lo voglio spendere e quindi alla chi se ne importa, cerco, certo. Trovare, esatto, abbiamo tantissimi ascoltatori. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno. Sì. Io volevo dire invece l'esatto contrario, nel senso che a me non è mai successo e trovo stupido dover taroccare una revisione che in fondo fai una volta ogni 2-4 anni per una macchina. A me è successo una volta, tipo, a fare una revisione mi avevano detto qui era il freno posteriore che non funzionava perfettamente, senza neanche fargli dire guarda, te la facciamo passare ugualmente, ho detto benissimo. Sono riandato al meccanico, ho fatto sistemare e l'ho portata. In fondo uno la macchina guida a 130 all'ora e rischi un incidente per cosa? Per 50 euro o 100 euro. Le pensi soltanto sulle gomme consumate, quanto la gente si faccia prendere dei coccoloni prima di cambiare un treno di ruote, cioè con quello che costano, sì, però sei tu che vai per strada. Dario, buongiorno. Dario. Niente? Pronto? Sì, eccolo Dario, sì. Eccomi qua, buongiorno, io sono Dario, sono un consulente alle vendite di automobili. Benissimo, lei la storia dei contachilometri taroccati quindi la conoscerà benissimo. Allora, la storia dei contachilometri taroccati che ci può stare in generale, anche per società di noleggio e tutto, voglio dire al suo ospite che comunque rispetto, perché anch'io sono un consumatore prima di tutto, non un consulente alle vendite, di fare un'indagine anche tra privati, perché capita spesso tra privati che il chilometraggio è taroccato, non sulle concessionarie. Ma non è che l'abbiamo escluso, noi ci siamo meravigliati che accada anche nelle concessionarie, privati è dato per scontato che lo facciano. No, perché secondo me capita di ritirare usati. Lui ha detto semplicemente, io la compro più volentieri da Fabrizio Intonti che conosco, almeno spero che non mi faccia questa infamata, perché è un mio collega in questo senso. È chiaro, se uno va dal rivenditore d'auto fuori del raccordo rischia altrettanto se non più di quanto dal concessionario normale. Sì, poi, sì, per specificare chi è, certo. Sì. Allora, io sono un concorrente Volkswagen, non sono Volkswagen, non dico di che marca va sono. Bene. È normale che. Quindi adesso... dorme preoccupato perché pare sia allargato anche altri marchi. No, guarda, ci è arrivata una lettera dall'America ieri, comunque almeno. Se tutto è vero, anche quello della lettera, il premio etico è stato vinto, però. Non è stato quello, perché adesso sicuramente Fiat spingerà per farlo in Italia, perché Fiat, come al solito, avrà bisogno di fare vendite e quindi. Sfrutterà questa situazione. Tra un anno per me troveremo che si è suicidato quello tedesco che ha trovato questo problema casualmente. Perché... Ma lei pensa che addirittura diciamo, la lobby dei costruttori lo cementificherà? Diciamo, no, lo ucciderà. Ma non solo il costruttore, parlo solo per adesso di Volkswagen. Lei pensa che tra un anno non si sarà suicidato casualmente questa persona? No, io tremo pensando i giapponesi che sono abbastanza propensi al karakiri, cosa succederà se vengono coinvolti anche loro? Ma i giapponesi, più che altro, no. C'è un po' più di serietà da quel punto di vista, ma perché loro tantissime lettere di richiamo le fanno, e questo, io non sono un marchio giapponese, lo dico subito, però la lettera di richiamo è un fatto di serietà, non è un fatto che la macchina non va bene, cioè nel senso, comunque è un fatto di serietà. La lettera di richiamo è quando avvertono il cliente che c'è un problema sulla macchina di riportarla al concessionario. Io sono contento per i tedeschi che fanno sempre i fenomeni, sono sempre quelli seri, che almeno una volta tanto scendono un attimo dal gradino e ritornano a essere umili, no? E questo tutti gli italiani brindano, per questo faccio questa trasmissione. Va bene, prendiamo la soddisfazione di dire anche i tedeschi ci hanno provato, però vediamo cosa succede a casa nostra. Ci fermiamo un istante, a tra poco. L'una dopo l'una scorre il tempo, amico.

Nella gestione dei rifiuti industriali molte aziende non sono in regola, spesso senza saperlo. Omnisist è certificata per occuparsi dell'intero ciclo dei rifiuti in modo avanzato e in totale outsourcing. Parti dalle tue reali esigenze per garantirti tranquillità e trasparenza, affinché smaltimenti e recuperi non siano più un problema né un rischio per la tua azienda. Vai su omnisist.it e chiedi una diagnosi tecnico-economica. Oggi è gratis. Tutte le informazioni su omnisist.it. Omnisist. Il valore della responsabilità. Architettura, interior design, arredamento. L'edilizia è un motore importante per la nostra economia. Cersaie è il salone della ceramica e dell'arredo bagno. Radio 24 ci sarà. Ti aspettiamo in diretta dal 28 settembre al 2 ottobre a Bologna, quartiere fieristico Agora dei Media. Melog. Cronache meridiane. Babbo ha acquistato questa macchina che praticamente sembrava uno spettacolo, perché era trattata benissimo dentro, fuori, poi aveva tutte le ricevute, le fatture, che gli era stata cambiata la turbina addirittura nemmeno un anno fa, a marzo del 2012, e quindi si è detto cazzo, questo avrà fatto 3000 km con questa turbina ottima, quindi fatture dei tagliandi, di tutto, ecco, spettacolare. Cos'è successo? Che siamo andati giù in Croazia e ci si è fottuta la turbina in mezzo alla via. Non è stata molto simpatica come cosa, soprattutto perché abbiamo dovuto sprecare, tra lavoro e carro attrezzi, 1300 euro. Che 1300 euro direte voi, chi l'ha sprecati? L'abbiamo sprecati noi. Perché? Perché non eravamo in Italia, perché giustamente la garanzia è valida lì. Eh sì, succede, okay. Succedono di tutti i colori, mi stanno creando segnalazione che in fondo il mercato del taroccamento delle automobili, sì, ma abbiamo scoperto che è diventato retaggio anche dei grandi colossi dell'industria automobilistica, ma nel nostro piccolo noi tutti ci arrangiamo, quindi noi tutti in parte siamo anche complici del fatto che buona parte della popolazione automunita italiana, quando va a fare le revisioni, quando vende un'automobile, quando va dal meccanico di fiducia, in fondo per risparmiare è convinta che certe regole servano soltanto per chi non è abbastanza furbo da saperle eludere. Poi c'è anche la versione complottista, scrive un ascoltatore, sicuri che l'America non abbia punito la Volkswagen perché la Germania ha aperto aziende della ditta in Russia malgrado l'embargo. Ma tutto può essere, non lo so, sta di fatto che comunque il taroccamento c'era, probabilmente sono stati i primi di una lunga catena, come ci ha annunciato il nostro ospite, già gira negli ambienti informati la voce terrificante che anche altri marchi, ma mi sembra strano se lo faceva la Volkswagen, che altri non lo facessero, usavano lo stesso software taroccatore che permetteva di passare la revisione e poi tutto tornava a spuzzettare come fa la Merkel oggi nella vignetta di Vauro. Giovanni, buongiorno. Buongiorno a lei radioascoltatori. A me è successo che io ho portato la mia autovettura, una Volvo, alla revisione periodica. E il meccanico mi ha dato appuntamento per ritirare la macchina dopo la revisione nel pomeriggio, perché davanti alla mia prenotazione ve ne erano un'altra decina. Ebbene, io il pomeriggio sono andato a ritirare la macchina. Molto veloce, perché fa 10 revisioni in poche ore, bravissimo. No, diciamo che sono passate 7-8 ore da quando io ho portato la macchina, ci stava. Però quando ho ritirato la macchina, dato che la mia aveva un'emissione di fumo molto evidente, ovviamente la prima cosa che ho fatto era quella di verificare se prima del collaudo avessero sistemato questa fastidiosissima e bruttissima emissione di fumi, e intanto notavo che la macchina non era stata spostata dalla posizione in cui io l'avevo parcheggiata. Cioè esattamente lo aveva parcheggiata. Esatto, poi ho messo in moto la macchina, fumava. Con la marcia bassa fumava come prima e forse anche più di prima. Però la revisione era fatta, era stata fatta. La revisione era fatta, il conto era quello di tabellare, non è che mi avessero, come dire, favorito in questa funzione. Io ne ho chiesto ragione stagione, e l'impiegato al front office con un mezzo sorriso ha detto: guardi che se lei vuole il servizio fatto come si deve ripassare fra una settimana. Ah, beh, ho detto vabbè, allora io vi pago fra una settimana perché vi sto pagando adesso. Quella era la giornata delle revisioni virtuali, quelle vere si facevano un altro giorno. No, ma le dirò di più, io poi ho cambiato, non ho pagato, non ho ritirato il bollino, sono andato da un altro meccanico il quale coscienziosamente ha fatto sia l'intervento che è durato un quarto d'ora, il tempo necessario per cambiare il filtro particolato e fare il relativo collaudo, dopodiché ho fatto una segnalazione in maniera informale a un ufficio dove conosco delle persone e nelle settimane successive questa officina è stata sottoposta a una verifica e gli hanno sospeso la concessione per le verifiche. Va bene, abbiamo capito, è stata un'esperienza traumatizzante, che è andato a fare la revisione e si è accorto che in realtà la revisione è un patto non scritto fra revisionatore e revisionato che non si fa perché costa troppo, ci vuole tempo, ma poi chi se ne importa. Vincenzo, buongiorno. Pronto? Sì, Vincenzo. Sì, buongiorno. Senti, una esperienza, diciamo, particolare dopo personale su note macchine tedesche, adesso non faccio nomi per... alla fine ho rinunciato ad acquistare una macchina usata perché avendo la possibilità di poter controllare tramite la concessionaria ufficiale, non i rivenditori, anche perché poi dobbiamo fare una distinzione tra concessionari ufficiali e rivenditori di autoveicoli. Avevo la possibilità di verificare il chilometraggio dai concessionari ufficiali di quello che nella realtà mi veniva venduto, e ho verificato per 6 volte di seguito che nel 7 il chilometraggio era taroccato. Era taroccato, ma di parecchio, quindi sostituzione di turbine ed altro. E quindi è come è successo ai ragazzi che sono andati in Croazia, gli si è bruciata la turbina che doveva essere nuova. Succede, Sì, però sai, il fatto io volevo dare, ecco, volevo approfittare per dare un suggerimento, anche perché poi nella realtà questa mia esperienza la volevo girare ad altri utenti che poi hanno l'esigenza e il bisogno di comprare macchine. Se richiediamo tutti al venditore, che possa essere la concessionaria ufficiale, la certificazione dei chilometraggi in fattura, e lo verifichiamo anche prima, che poi il problema di fondo è anche questo, cioè il rivenditore ti dice a voce: ok, io ti scrivo tutto quello che sia, ma quando poi si tratta di certificare il chilometraggio, questo viene fatto generalmente dalla casa madre, che possa essere, di solito le tedesche registrano tutto, sia sulla chiave sia sul cruscotto, quindi viene tutto registrato, oltre che il libretto dei tagliandi, e la truffa diventa difficile. Più difficile, allora, perché c'è un sistema di controllo più forte. Sandro, buongiorno. Sandro è morto. Allora, torniamo al nostro ospite, Claudio Cangialosi, ricordo direttore fondatore di sicurauto.it, che è il portale dedicato alla sicurezza sulle auto, su cui potete trovare tutti i moduli di tutte le possibili astuzie di cui potete essere vittime. Ecco, riguardo quello che hanno detto gli ultimi ascoltatori, che c'è un maggior margine di sicurezza quando si chiede di mettere ad esempio i chilometri sulla fattura, scriverci direttamente, corrisponde a verità? Risulta questo? Allora, la realtà è che spesso e volentieri molti venditori poi all'atto di mettere nero su bianco quello che dicono a voce cominciano ad essere molto restii, quindi sicuramente già c'è puzza di bruciato e consigliamo di girare i tacchi e andare via, quindi questo potrebbe essere un'arma. È anche vero che c'è un'altra soluzione, che non è sempre praticabile perché alcune concessionarie sono un po' resti a essere, diciamo, collaborative, però per esempio se io, Claudio Cangialosi, vado in un rivenditore generico, non una concessionaria, e trovo una vettura di un marchio X, potrei andare dalla concessionaria che vende quella vettura, quindi il classico concessionario col brand di sopra, e chiedere: mi può dire l'ultima volta che la vettura ha fatto un tagliando presso la rete generale di questo marchio, quanti chilometri aveva? Perché se per esempio io scopro che quella vettura che un anno fa aveva fatto il tagliando presso, facciamo un esempio, Fiat, e aveva 80.000 chilometri e il mio rivenditore me la sta vendendo con 60.000, c'è qualcosa che non va. Ma non è che dopo stata una legge Monti che ha permesso a qualsiasi meccanico di fare le revisioni come se fosse, diciamo, la casa madre? allora, parliamo di tagliandi, non tanto revisioni. Ah, tagliandi. Tagliandi. Sì, i tagliandi, il tagliando generico. Questo è anche vero, lì sta il problema, perché non tutti questi database poi dialogano tra loro. Ecco perché quello può essere già un tentativo, che non è detto che vada a buon fine. Sì, per molti meccanici spacciano. Guarda, per la legge Monti noi possiamo farti il tagliando come se fosse a casa madre, spendi meno di quanto ti fanno spendere loro. Allora, questo è, attenzione, questo è vero e noi l'abbiamo scritto, e anche ci sono tutta una serie di articoli su Sicurauto in merito a questo. Questo è un diritto del consumatore ed è vero. E è vero che si spende meno obiettivamente, ma corrisponde agli stessi margini di sicurezza? Allora, se lavorano secondo le norme, perché poi ci sono tutta una serie, diciamo, di passaggi da seguire, i ricambi che devono essere di qualità equivalente, non è detto che devono essere originali, se lavorano in maniera corretta, assolutamente sì. Ricordiamoci che però diciamo, ormai i meccanici cosiddetti generici hanno un problema, che è quello poi dell'aggiornamento, ed è lì anche la Commissione Europea sta facendo molto, perché siccome le tecnologie vanno molto avanti e i meccanici non hanno sempre la possibilità di formarsi per tutti i marchi, ecco perché almeno quello che noi consigliamo, soprattutto nei primi anni, diciamo i primi due anni dove c'è la garanzia di legge della vettura, e soprattutto se la vettura è giovane, di andare a concessionari. Più che altro per una questione realmente di formazione, non è tanto di qualità dei ricambi e tutto, ma oggi le vetture sono veramente dei computer, e già dei meccanici specializzati sullo singolo brand fanno fatica a stare dietro a tutte le tecnologie. Non ci dimentichiamo che oggi le vetture hanno tantissimi sistemi di sicurezza di ultimissima generazione, che se non sai come lavorarci, come sai metterci in mano, addirittura sensoristica, airbag eccetera, può diventare certo, pericoloso. Il problema nasce proprio in questi giorni, leggendo le cronache, se il marchio funereo dell'Onta cade proprio sul brand, come dice lei, cominciano ad esserci problemi. Se non mi posso fidare nemmeno del costruttore e del rivenditore autorizzato dell'autosalone che vende la macchina e c'ha il marchio sopra, cominciano i problemi. Ci fermiamo un istante, riprendiamo tra un po'. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Leggo nei siti informatici, si parla del Dieselgate, siccome il 56% delle auto immatricolate sono diesel, adesso nessuno vorrà più il diesel, per paura che da oggi a chissà quanti anni il diesel sia sinonimo di taroccamento, di pericolo o comunque di averci delle noie. Poi molti mi dicono che hanno macchine di marchio Volkswagen, che vogliono sapere se devono chiedere risarcimenti o cose varie. Non è il tema di oggi, oggi parliamo dei taroccamenti fatti in casa, di quello che accade, sempre accaduto, va nelle maglie interstiziali delle cose tollerate o lievemente represse, che però comunque fa parte di un malcostume nazionale. Non è che oggi, perché abbiamo scoperto che i tedeschi taroccavano, siamo tutti innocenti. Nunzio, buongiorno. Buongiorno. Io ho comprato da una concessionaria, proprio Volkswagen, un'auto in permuta, una Suzuki Ignis. L'auto ottima, 54.000 chilometri. Dal rivenditore stesso l'ho fatta portare nel migliore centro assistenza di Catania, l'ho comprata a Catania, per mettere l'impianto GPL. All'epoca, nel 2009, c'erano gli incentivi, i pseudo ecoincentivi di Berlusconi, che ho risparmiato parecchio. La macchina, dopo che è uscita dal GPL, non andava veloce, andava sempre piano. Dopo un anno vado a cambiare il filtro, pago 87 euro per un filtro del GPL e mi dicono che gli iniettori del GPL sono tutti andati e ci vogliono gli iniettori nuovi. Loro volevano il costo del GPL, dell'impianto nuovo praticamente. La porto da un altro, e questo è il migliore di Catania, la porto in un altro, mi dicono che avevano montato, anziché i BRC, quelli cinesi, i più scarsi che c'erano in commercio. Il filtro non costa 87 euro ma costa 18 euro. Andiamo al punto, che adesso non è che posso farci l'elenco di tutto quello che ha pagato i pezzi. Cosa ha scoperto? Che hanno preso i pezzi? Che mi hanno taroccato, cioè no taroccato, mi hanno fregato montando dei pezzi di robaccia cinese a poco prezzo. Sì, e sto parlando del migliore impiantatore di GPL. Però lei l'ha pagato come pezzi originali, naturalmente. Certo, ho pagato come pezzi originali di altissima qualità, anzi ho pagato pure di più rispetto al prezzo incentivo, perché ho chiesto il top della gamma, e quando dovevo cambiarli mi dovevano mettere altri cinesi e mi venivano a costare quasi quanto l'impianto, 400 euro. Ma lei come se ne è accorto che erano cinesi, per capire? Perché sono andato in un altro rivenditore. Ah, gli hanno detto quello, beh, certo, come ogni idraulico dice quello. Ma t'hanno fregato, t'hanno montato quelli cinesi. Allora, sentiamo ancora Claudio Cangialosi, poi lo lasciamo perché è all'estero in automobile, direttore fondatore di sicurauto.it. Fa parte anche delle truffe consuete, quello del pezzo cosiddetto cinese, cioè della robaccia al posto dei pezzi originali? Assolutamente sì, non è il primo caso, non abbiamo tantissimi nel nostro forum. Quello che ha detto il radioascoltatore è proprio vero, poi questo è un problema di molti meccanici, a meno che non sia uno di vera fiducia. Non sai mai quello che ti monta dentro il motore, dove ovviamente non puoi mettere mani finché si... Ora c'è un doppio mercato, io mi metto nei panni di un meccanico, ho un fornitore di pezzi di ricambio originali e qualcun altro che verrà con l'area furtiva e mi dice guarda, io c'ho robaccia cinese ma costa la metà. Dipende da una scelta a monte proprio del meccanico o del dell'autosalone? Allora, è sempre il meccanico che sceglie, perché ovviamente sì, si approvvigiona dei ricambi. Il consumatore potrebbe chiedere, fare un'indicazione, io voglio il ricambio originale, il radioascoltatore ha parlato di BRC, voglio il prodotto BRC. La verità è che non sai mai quello che ti mette dentro, perché siccome sta... Dovresti stare lì, prenderti un panino e una bottiglietta d'acqua e assistere al montaggio e avere strumenti tecnici per capire la differenza, perché chi non è del mestiere gli metti due pezzi davanti, come fa a capire la differenza? Questo è tutta una questione di fiducia poi alla fine. La verità è il consumatore ha proprio parlato anche di prodotti cinesi. Noi abbiamo proprio fatto un progetto efficace educational su Sicurauto, proprio di tutti i componenti della vettura, dove il consumatore può capire quanto è importante scegliere prodotti di qualità e anche orientare ovviamente il proprio meccanico, perché capita anche che ci sono meccanici dove il consumatore arriva e dice fammi spendere il meno possibile. Questione è questa, fammi spendere il meno possibile. È ovvio che poi magari là il meccanico, per evitare di perdere il cliente, alla fine si prende prodotti di scarsa qualità che costano poco, e quindi il cliente tra virgolette è soddisfatto all'inizio, poi magari dopo 6 mesi ha problemi, però alla fine per una mano piange lacrime amare. Guardi, io so che non possiamo più approfittare del suo tempo, la lascio al suo viaggio, la ringrazio dei consigli. Tengo a dire che ero fermo, non stavo guidando. Beh, sì, ma comunque poteva avere un viva voce, sì, lo so che non, darebbe un pessimo esempio, altrimenti. Esatto, bravissimo. Grazie Claudio Cangialosi. Voleva aggiungere qualcosa? Prossima. Sì, doveva aggiungere qualcosa. Volevo soltanto chiudere con chi aveva detto prima un radioascoltore Marco che nel mondo delle auto usate, lui ha fatto una premessa che secondo me è anche un po' lo specchio di quello che è poi questo mondo. Lui ha detto vabbè, il discorso dei chilometri che ci può anche stare, che vengono scalati, ecco, questo che ci può anche stare non mi piace, non ci dovrebbe stare, ed è appunto, tornando all'inizio, specchio, è quello che puoi mettere in evidenza quando questo settore è marcio Sì, è il mal costume acquisito, com'è diventata regola? Vabbè, dai, chilometri lo fanno tutti, che vuoi che sia. Come quelli che parcheggiano nei parcheggi con le strisce gialle, ma lo fanno tutti, che vuoi che sia. Riccardo, buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletti. Finalmente la sento, e tanto non ci sento. Che le hanno fatto, Riccardo? No, a me non mi hanno fatto niente. Io parlo di questo aneddoto perché ho lavorato nel settore delle macchine usate. Come secondo lavoro facevo il venditore di macchine usate, che io di primo lavoro faccio il camionista. Era un bravo taroccatore. Come le taroccava lei? No, non è. Io non so, non saprei nemmeno come fare. Ma quel discorso dei chilometri arriva a degli eccessi. A me è capitato di andare a prendere una macchina da un concessionario, comprata perché noi la vendevamo, eravamo una specie di autosalone, con 360.000 chilometri, e il capo gli ha fatto levare i 3 ed è diventata di 60.000 chilometri. Si trattava di una macchina, e gli posso garantire, Nicoletti, che se la si metteva in vetrina sembrava nuova, era tenuta da un maniaco proprio. Sì, però 300.000 chilometri non è proprio una barzelletta. Non è una barzelletta. Però volevo fare questo di puntualizzazione, non voglio difendere chi lo fa, per carità, non vorrei dare questa impressione, però certe volte uno è costretto anche dalla miopia dei clienti, perché oggi con le macchine moderne, una macchina con 150.000 chilometri, una macchina ancora fa un servizio eccezionale, non è una macchina da prendere e buttare nella presa. Sono d'accordo, poi voglio saperlo quanto ha fatto, esatto, perché me la fate pagare per macchina che ha fatto 150.000 chilometri, non macchina nuova. Tutte le ragioni, il problema è se lei lo dice, anche se gliela fa 1.000 euro euro meno, 1.500 euro meno di quello che costa, quello non gliela compra, le macchine gli rimanga tutto. Ecco perché è diventato questo malcostume. Ora molto meno perché ci sono dei controlli, ci sono delle denunce, ti vanno in penale, quindi la gente... È come quel signore, dico, se non mi rifaccio non mi vuol più nessuno, si rifanno tutte. Ma è, a un certo punto devi cominciare ad andare contro la regola, perché sennò non ne usciamo più. Sono perfettamente d'accordo, però li volevo spiegare anche perché queste cose succedono, non è solo per cercare di fregare, anche proprio per cercare di sopravvivere in certi anni. Sì, sì, sì, si frega per sopravvivere, però il risultato finale non cambia, questo lo pensava anche l'amministratore delegato alla Volkswagen, che è stato costretto però a dimettersi. Grazie Intonti, grazie Chiappini, a domani.